colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo, non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un pipì per il culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto a Ecclestone, bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Carlo Genta. E poi grande disimpegno questo di Domenech, si è fatto male, molto male, ma molto male al ginocchio, sì. Attenzione. Mamma mia, l'appoggio mamma come ha girato, brutto, sì, brutto, si è visto brutto, chiaramente brutto, lì, brutto, ginocchio brutto. Sinistro, questo è grave, grave, grave, grave, si è visto proprio la posizione innaturale dopo 6 minuti e 32 da parte di Milito che si era accanito su questo pallone, il grande intervento di Piccolo e qui si chiede il cambio, sta per arrivare il momento di Palacio. Come vedi sono qua, monta su. Non ci avranno finché questo cuore non creperà. Alberto! Dico! Dico! Alberto! Dico! C'è una notte tiepida e un vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò. Ma è proprio un grandissimo dispiacere nei suoi confronti per l'entusiasmo che aveva in questo momento qui, la forma che aveva ritrovato, la professionalità proprio che lui usava con il piacere anche di... E quindi questo, insomma, questa sberla di ieri è stata spaventosa. Buongiorno a tutti, Franco Piantanieta, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. La faccia di San Valentino, ieri, tra il caso Pistorius, che oggi ha visto la comparizione di Pistorius in tribunale, l'imputazione pesantissima è quella di omicidio volontario, e poi ne parleremo, prossima udienza il 19 per permettere ai legali dell'atleta di preparare la richiesta di cauzione, di rilascio su cauzione. San Valentino stortissimo anche per le nostre Europa League, non tanto per dei risultati che tutto sommato non sono male, al di là di quello del Napoli disastroso, questo 0-3 interno che non autorizza certo messaggi come questo di Marco da Reggio Emilia. Lo vogliamo dire che la sconfitta del Napoli 0-3 era pagata 25 volte Mondomarcio. Va bene il pensar male, ma a tutto credo ci sia un limite. Il pensar male autorizza a dire che il Napoli, al di là della formazione, del fatto che è stato schierato Cavani, non teneva poi tanto a rimanere in corsa in questa competizione. Grande battaglia della Lazio, 3-3 sul campo del Borussia Mönchengladbach, ma per l'Inter, al di là del 2-0, la serata peggiore con Milito, che secondo me è il giocatore più importante di questa squadra, che si fa male in modo grave, rottura del crociato, 33 anni, addirittura carriera a rischio, si dice, per El Principe, Diego Milito. Urlando contro il cielo, la canzone di Gabuè che state sentendo è quella che si alza quando l'Inter segna, e tante volte questa canzone l'ha fatta risuonare nel cielo di San Siro, Milito. Saluto e ringrazio Aldo Serena e convoco tutti gli ascoltatori, 800240024 come ogni giorno. Aldo, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti voi. Giocatore più importante dell'Inter, Diego Milito. 33 anni, Aldo. Rottura del crociato. Giocherà ancora? È rientrato da poco e si era già vista la sua capacità balistica in area di rigore. È un giocatore troppo importante per l'equilibrio d'attacco dell'Inter. 33 anni con un infortunio crociato e anche collaterale rotti. Deve avere, secondo me, grande forza d'animo e grande determinazione per poter ritornare a giocare. Può anche essere, secondo me, adesso dipenderà molto dalla sua determinazione e anche da come reagirà il suo ginocchio dopo l'operazione. Sì, comunque restiamo d'accordo, ieri tra l'altro giorno maledetto al di là di Pistorius, al di là di Infortunio Milito, anche e soprattutto per Imbriani, per la vicenda, il dramma di Imbriani. Ascoltatori, ci invitano a ricordarlo e lo facciamo volentieri. Siamo d'accordo però, Aldo, sul fatto che in questa Inter Milito davanti e Samuel dietro, cioè due giocatori che adesso non ci sono più, fossero i giocatori più importanti, no? Per dare equilibrio alla squadra, uno che blinda la difesa e l'altro che fa i gol. Sì, devo dire che con anche la buona stagione di Ranocchia, Samuel poteva essere poteva dare un contributo essenziale, a mio avviso, alla fase difensiva nerazzurra, che quest'anno spesso ha avuto delle lacune. Davanti Milito, non perché è stato il bomber del triplete, perché per tutto quello che ha fatto in passato, ma anche proprio per quello che nel presente poteva dare, anche se magari in alcuni casi nell'arco della stagione qualche momento di appannamento lo può avere, lo ha avuto anche nella scorsa stagione, è per l'intelligenza tattica, per la capacità balistica. L'Inter poi non ha sostituti, non ha un giocatore che può fare le veci di Milito. Palacio ieri ha fatto molto bene quando è entrato, però ha caratteristiche diverse. Sicuro. Il Napoli, al di là del fatto che abbia schierato Cavani eccetera, ha dato un po' l'impressione di mollare il colpo in questa Europa League, pensando al campionato. Ogni tanto capita al Napoli di toppare clamorosamente, quando non ha la tensione giusta, quando non c'è la carica adeguata. Il Napoli deve giocare sempre con quella concentrazione, con l'intensità di gioco che è proverbiale, con quella soprattutto intensità difensiva, per poi ripartire con i contrattacchi veloci. Quando invece non ha quell'ardore, non ha quella concentrazione massimale, rischia di fare di andare incontro a delle figuracce, e ieri è capitato questo, probabilmente in maniera inconscia. Così questo inseguimento alla Juventus, tutti i calciatori hanno le proprie energie puntate su quello. Sicuro. Stasera gioca il Milan, il Sharawi a riposo, Aldo. Si è molto discusso sulla coppia Sharawi-Balotelli e sul fatto che Sharawi magari può prestarsi a fare il cavalier servente, ma a tempo determinato, al di là del fatto che sia stanco. Tu come la vedi questa coppia? Ma io la vedo sotto il profilo, sulla carta, bene, perché hanno doti tecniche sopraffine entrambi, hanno forza fisica, hanno velocità. Certo, Sharawi già parte da sinistra, ma abbiamo visto che fino ad ora in questa stagione, che partendo da sinistra è riuscito a fare tantissime reti, ad avere delle buone opportunità. Naturalmente hanno bisogno di giocare un po' di tempo insieme, trovare i meccanismi giusti, ma io credo che se qualche problema ci può essere magari, non so, sotto il profilo fuori dal campo, ecco, con un Balotelli che accentra le proprie vicissitudini spesso sui media e magari mette nel focus la propria persona, ma io penso che, visto il Sharawi come ragazzo, come campione, mi sembra che di questo gli importi poco. Sì. Aldo, un'ultima cosa che non riguarda il calcio, ma il fatto che tu sei un uomo di sport. Il primo pensiero che hai avuto quando hai sentito la notizia di Pistorius? A me sono venuti i brividi, e ce li ho ancora adesso, figurati. Che l'animo umano è difficile da comprendere, anche quando pensi di aver conosciuto una persona fino in fondo, magari ci sono delle sfaccettature, ci sono delle situazioni, poi bisogna essere veramente molto stretti, vicini a questo ragazzo per poter capire cosa può essere successo. Ne parlano tutti bene, ha avuto qualche momento negli ultimi anni così di sbandamento, devo dire, farlo un gesto così tremendo, così pazzesco, totalizzante per quanto riguarda la propria vita, perché qui ammazzi una persona e poi distruggi la tua vita. Non so dar giudizi. Aldo, grazie come sempre. Ciao a tutti voi. Ciao, un abbraccio, Aldo Serena. 800240024, parleremo di Pistorius, parleremo di basket più tardi, ma io soprattutto voglio sentire la vostra voce, oltre che quella di Conte che sta parlando, magari poi la sentiamo. Strade. Eto trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa è 2-0, è il principe, diventa re nella notte di Madrid. E qui ha fatto il suo corpo. tutti convocati. Ciao direttore. Direttore Aghi, cari amici convocati, 800 24 00 24, c'è Antonio Conte in conferenza stampa in diretta, sorride, chissà perché, sentiamolo. Se vado a ritroso, perché io poi ho una buona memoria, a inizio parlavate di Juventus non europea, bensì di una Juventus nazionale che in casa, nel campionato italiano, la faceva da padrona, poi balbettava in Europa. Adesso nel giro di 4-5 mesi sono cambiate un po' le opinioni, quindi non era vero prima, non è vero neanche adesso, quindi c'è una Juventus che cerca di vivere sia il campionato che la Champions, possibilmente così come la Coppa Italia, da protagonista. La Coppa Italia l'abbiamo vissuta da protagonisti, peccato. C'è questo, ripeto, non ci sono due Juventus, non c'è una Juventus più affamata, meno affamata, così come non c'erano prima, non ci sono adesso. C'è da parte nostra in questo momento anche la consapevolezza che si deve sbagliare il meno possibile, questo è fuori dubbio, sia in campionato in Champions, perché non ci sarà più tempo tanto per recuperare, questo è fuori dubbio. Io sorrido al sorriso sarcastico di Conte che voi non avete potuto vedere, ma vi assicuro che era un sorriso sarcastico. Voi parlavate di una Juventus che era italiana e non europea, invece vi sbagliavate. Andrea Padova, 800 24 00 24, convocati. Buongiorno. Tutti, buongiorno. Ciao. Buongiorno Carlo. Ciao Andrea. Volevo spendere due parole per augurare in bocca al lupo a Giovanni Soldini, sì, che è il suo equipaggio, che stanno per arrivare a San Francisco. E ha detto: preparate la birra, stiamo arrivando. Esatto, proprio così. Io lo seguo dall'inizio dell'anno praticamente. Sì. Tutte le volte che vado in ufficio la prima cosa che faccio è cercare di collegarmi e vedere dove sono. Domani dovrebbero arrivare. Un grandissimo in bocca al lupo. Bravo Andrea. Bravo. Grazie. Bravo. Se posso, guarda, già che ci siamo, benissimo. C'è un altro navigatore francese che si chiama Jean-Pierre Bic, che è arrivato praticamente facendo le ultime, alla Vendée Globe è arrivato quarto, facendo le ultime 2600 miglia con una avaria gravissima, cioè ha perso il bulbo. Sì. È un po' come se ti dicessero di sciare senza allacciare gli attacchi. Questo signore è arrivato quarto, secondo me merita una standing ovation. Standing ovation e un sacco di birra anche per lui. Perfetto. Andrea. Grazie mille, sono grandi, ciao, grazie Andrea, sono grandi imprese sportive, ti ringrazio davvero per averle ricordato in questo libero spazio per tutti voi sportivi, perché qui noi vi parliamo, vi diamo degli spunti, ma poi questo spazio è vostro. 800 24 00 24, Davide Mantova. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un milanista molto dispiaciuto per Milito. Bravo, ma ce ne sono tanti, sa? Milanisti, juventini, Milito eccetera, ha fatto piangere molte volte. Sì. Però io ieri sera guardando la partita mi è dispiaciuto molto, perché è un grande campione e sinceramente non se lo meritava. Ma nessuno si merita un infortunio di questo tipo, questo è sicuro Davide, però Milito è certamente un grande giocatore, un giocatore molto corretto, un campione che è anche un piacere affrontare al di là del male che ti fa, io credo, perché comunque è uno che gioca sempre con grande lealtà e che ha sempre atteggiamenti molto composti e molto leali, quindi credo sia un grande avversario anche per chi lo affronta. Ecco, vedere un infortunio così grave fa male a tutti, quelli che amano il calcio al di là degli idioti che pensano solo alle squadre di casa propria. Anche perché io seriamente ho dei dubbi che a 33 anni, nonostante la forza di volontà, ma tenuto conto anche di una carriera che di infortuni è stata diverse volte costellata, possa tornare in breve tempo ad alto livello. Sono infortuni che richiedono, non lo so, poi vediamo, ma 6 mesi per riuscire a rimettere piedi in campo e poi per trovare la condizione se ne parla. E a quest'età mi sembra, ripeto, molto, molto difficile. Continuo a dire il giocatore più importante dell'Inter, ma d'altra parte i fatti e l'andamento della squadra lo ha dimostrato. Cosa devo leggere? Ma questo Conte fa di tutto, un SMS? Ma questo Conte fa di tutto per essere parodiato da Crozza, agghiacciante. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva che, credetemi, lor signori, è agghiacciante. Questa era Crozza, ma io voglio in crossover totale, come insegnano i Red Hot Chili Pepper. Voglio leggervi qualche brano scritto da Massimo Picozzi oggi sul Sole 24 Ore. Massimo Picozzi, illustre criminologo sul caso Pistorius. Ebbene, il primo è questo. Perché se di omicidio volontario si tratta, difficile si possa pensare ad una premeditazione, più probabile pensare a un delitto d'impeto di quelli che arrivano a conclusione di uno scontro o di un litigio. E sparare perché si è perso il controllo, perché le emozioni hanno travolto la ragione, non concede quella lucidità necessaria a costruire un alibi che regga, soprattutto se non sei un delinquente abituale. Questo è un primo passaggio che vi leggo, ma ve ne leggo anche un altro perché è molto interessante. Per una terribile coincidenza, nel giorno di San Valentino di 25 anni fa, il pugile Carlos Monzon uccideva la moglie Alicia. Per non parlare del celebre caso di O.J. Simpson, uno dei più grandi atleti della storia del football americano, una chiave di possibile lettura è legata al tema della rabbia. Poi vi parlo anche di rabbia, al di là del fatto che tutto è ancora da chiarire e che finché non parleranno i giudici non ci sarà una sentenza. Sono parole importanti, ma parole. I fatti sono che oggi Pistorius è stato incriminato per omicidio volontario, per omicidio premeditato, per omicidio premeditato. Il 19 ci sarà la prima udienza per vedere se i suoi avvocati riescono a convincere i giudici a rilasciarlo su cauzione. 800240024, Vincenzo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno Carlo. Ciao Vincenzo. Allora, io volevo dire la mia sul ciclismo. Io sono ciclista amatoriale e riguardo Armstrong vorrei dire questo. Riguardo? Armstrong. Ad Armstrong, sì. È già da poco che lo volevo dire. Io per fare la maratona delle Dolomiti, che l'ho fatta nel 2010, sono andato per 20 giorni a fare 110 km, un giorno sì, un giorno no, sull'Appennino emiliano. Sentire uno come questo che mi viene a dire che per vincere bisogna dopparsi, sinceramente è un insulto a tutto lo sport. Sì, è un insulto a tutto lo sport. Vincenzo, ma in gruppo tu, da ciclista amatoriale, hai l'impressione che qualcuno faccia uso di qualcosa di illegale? Al di là del fatto che tu vai ad allenarti 20 giorni sulle Dolomiti come si dovrebbe fare, perché questo è un tema importante, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con Eugenio Capodacqua. Ma non lo so se nei gruppi ci sia gente che usa sostanze dopanti. Comunque volevo dire questo. Hai l'impressione? Era nei primi 10. Ed è stato importante partecipare a quella competizione. E sentire persone come Astro che ci mettono la faccia così belli come il sole, sorridenti, mi dicono: ma sì, io tanto mi sono dopato, dovevo fare così. Sì. Sinceramente un insulto a tutto lo sport. Beh, non vale solo per Armstrong però, no Vincenzo? Assolutamente sì. Comunque tu non hai l'impressione che in gruppo ci sia qualcuno che fa il furbo? Ma non lo so, io per il mio piccolo che faccio non sto a guardare gli altri se si dopano o meno, non riesco neanche a capirlo se fanno. Ho capito, però secondo me, Vincenzo, io ti faccio i complimenti perché sei uno sportivo serio, però io non lo so, a me basta fino a un certo punto perché sappiamo benissimo come uno dei grandi problemi sia la diffusione del doping amatoriale. Ne parlavamo, ripeto, l'altro giorno con Eugenio Capodacqua e io lo penso in maniera convintissima, lo penso in maniera profondissima. Uno dei grandi problemi è l'uso di sostanze tra gli amatori, nel mondo giovanile, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia il cancro vero. Non tanto quello del ciclismo, cioè non tanto quello del ciclismo professionistico con i monitoraggi e i controlli medici eccetera eccetera, è qualcosa di schifoso, ma a me fa molta più paura l'impiego di queste sostanze ad altro, su altri piani. Massimo Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Io prima vi ho sentito parlare a proposito della sconfitta del Napoli di ieri, di mancanza di concentrazione, di ardore agonistico. Sì, potrei essere d'accordo fino ad un certo punto, però io le dico, il Napoli ha perso con il Victoria Plzen, sì, non con una squadra blasonata. Io conosco ha perso contro una squadra di calcio, eh. Viktoria Pilsen, sì, è comunque una seria squadra di pallone. Poi è chiaro che questo 0-3 legittima dei dubbi, no? Cioè legittima, certo, dei dubbi sul fatto di voler rimanere ferocemente in corsa. Sì. L'altra cosa che vorrei dire è a proposito di Mazzarri. Cioè io la squadra del Napoli la considero una squadra fortemente competitiva, ma il suo allenatore paradossalmente è il limite del Napoli, perché il suo allenatore dà sempre degli alibi alle sue sconfitte, lo fa davanti alle telecamere, lo fa davanti a tutto il mondo, sì, e lo fa da tanto tempo, lo fa. Ma lo fanno e quindi penso che il limite sia quello. Io sono un tifoso della Juve, quando la Juve tentava la corsa alla Champions e io speravo che uscisse dall'Europa League, poi ho avuto il dispiacere di vedere arrivare la Juve settima senza Europa League. Questo le volevo dire. Sì, però ho capito, però i soprannomi di Mazzarri lamentino, però lo fanno un po' tutti, no? Dare la colpa a questo, quell'altro, all'arbitro, al terreno, alle stelle contrarie, a San Valentino, eccetera, eccetera. Quindi non è un'abitudine soltanto di Mazzarri. Maledetti, sono in metropolitana e a sentire il commento del gol di Milito mi stava venendo da piangere, scrive un ascoltatore. 800240024, vi aspetto qui dopo la borsa. Tutti convocati. Medaglia mondiale in tre edizioni diverse per Manfred Mölg, questo campione capace di arrivare sul podio al secondo posto a Ore nel 2007 in slalom, poi terzo a Garmisch due anni fa e oggi arriva terzo in gigante. Ragazzi, poi non dite che siamo che non siamo sul pezzo, accaduto pochi istanti fa. Manfred Mölg dunque terzo nello slalom gigante mondiale a Schladming, dietro l'americano Ted Ligety e dietro Hirscher, leader della Coppa del Mondo. Quindi altro metallo pregiato che arriva alla spedizione mondiale italiana dello sci. Andrea, provincia di Firenze, ciao. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E per noi che lavoriamo in macchina a quest'ora fa tanta compagnia, onestamente è diventato fantastico. Un appuntamento... Va bene così? Imperdibile. Cambiamo qualcosa? Andiamo avanti. No, beh, va benissimo così. Fantastico. Dica. Niente, io telefonavo perché sono un appassionato di basket. Prima di tutto, essendo toscano, volevo fare un in bocca al lupo a Siena, che spero riesca a riprendere, a vincere anche in Eurolega. Sì. E poi, seguendo un po' anche il basket americano, che diciamo è stato da lì che è nata poi la passione per il basket, dai tempi di Michael Jordan in poi, mi sono un po' appassionato a un dibattito che c'è adesso in America sul fatto se è meglio Jordan, è meglio LeBron James. Sono sempre discorsi futili. Sì, divertenti. Però ma futili. Io penso che alla fine, cioè, sono due grandi giocatori. Volevo capire un po' anche voi, che siete magari un po' più esperti, che cosa ne pensate. Ma che sono discorsi che non hanno mai fine, Andrea. Infatti stiamo per... Stiamo per parlare di basket, come lei ben sa, il venerdì a quest'ora. E c'è, forse incrocerà sulle sue strade coach Dan Peterson, che sta scendendo a Siena per il big match con Vittoria, per commentarlo per Sport Italia. Questi sui confronti epocali sono discorsi, ripeto, divertenti ma velleitari, come lei sa benissimo. Partiamo invece da Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a te. Andrea dalla provincia di Firenze tornava sul dibattito meglio LeBron James o Michael Jordan. Vabbè, dai. Sono discorsi accademici, Pelé o Maradona. Non c'è una risposta a tutto questo, caro Flavio. Senti, devo? Non serve. Andiamo invece a questa voce. Gherardini, general manager d'Antoni, allenatore di Milano la prossima stagione, si è diffusa. Un ascoltatore ha scritto su Twitter: non ci credo, neanche se lo confermano a tutti i convocati. Vabbè, non posso confermarlo, onestamente, non essendo, mi risulta che almeno uno dei due sia sotto contratto per altre due stagioni ai Lakers. Sì. Per cui, ma poi onestamente non vedo proprio la fattibilità in questo momento. poi tutto è possibile, ma tenderei a dubitare. A dubitare. Quindi la risposta di tutti i convocati è questa, cari ascoltatori che ci twittate, ci cinguettate. Si sta chiudendo un mercato invernale dell'NBA senza nessuna trade, Flavio, senza niente di clamoroso. Manca qualche ora magari, però non si... Vedi qualcosa all'orizzonte tu? In NBA? Sì. Beh, qualcosa potrebbe succedere. Ovvero? Considera che fino alle ultime, no, non so che cosa, però diciamo la situazione dei Lakers mi sembra dopo stanotte arrivata a uno stato piuttosto avanzato e di non ritorno. È vero che le operazioni possibili teoriche grosse sono Gasol o Howard. Gasol è impossibile per l'infortunio e Howard è molto molto difficile per un altro motivo, però già lì potrebbe essere un fronte. Poi soprattutto la situazione del nuovo contratto potrebbe indurre qualcuno a mollare adesso un giocatore che potrebbe essere più complesso e meno conveniente mollare dopo, ma fino alle ultime ore del 21 di febbraio non lo sapremo, perché finché non arrivi veramente a ridosso della deadline, della scadenza, è tutta accademia. Sì, non siamo al lancio del contratto, te lo ricordi, il famoso lancio del contratto di Milito oltre il box, però poco ci manca, insomma. Ci siamo vicini. Intanto siamo storicamente al momento, insomma, che segna lo spartiacque della stagione. All-Star Game, bella festa, Brook Lopez al posto di Rajon Rondo, Wade, Anthony, LeBron James e Garnett a chiudere il quintetto dell'Est, dall'altra parte Chris Paul, Bryant, Durant, Griffin e Dwight Howard, eccetera eccetera eccetera. Poi si comincia a capire qualcosa. Storicamente è sempre stato così e sarà così anche quest'anno, anzi ancora di più. Oltretutto questa è una stagione di grande equilibrio, in cui ci sono stati momenti in cui sembrava che prima New York, poi Miami, poi San Antonio, poi Oklahoma City e altre squadre avessero preso in mano la situazione. Direi che non la prende in mano nessuno fino a che non è almeno aprile, ma fino a che non è almeno marzo non riusciamo a capire chi potrebbe veramente prenderla in mano. Posto che non certo per i numeri o per le strisce, ma quello che sta facendo LeBron James tende a farsi notare un po' più di tutto il resto. Un po' più di tutto il resto. Considerazione estetica. Le t-shirt dei... Volevo sentire coach Dan Peterson per bacchettarlo, perché le t-shirt dei Golden State Warriors a me fanno schifo. Ma ti dico, te ne frega niente. Così bene, te ne frega niente. Che stiano così bene con la canottiera. Stanno così bene così come sono, perché mettere la t-shirt che non mettono... Ti ricordi il basket femminile degli anni 70, no? Esatto. Bravo. esattamente. Perché tornare là? Invece, considerazione, ci siamo incrociati per la finale di Coppa Italia, onore massimo a Varese, ma se inizia una finale, io non so se te ne ricordi una, 0-18 poi diventa dura. Il problema è che quelle partite lì o le sai giocare o non le sai giocare, e se le sai giocare di solito, anzi senza di solito, sempre, è perché le hai già giocate, e se le hai già giocate le hai anche già perse, e siccome le hai perse hai capito come giocarle. Varese non ha avuto nel suo passato questo processo, non questa squadra, non questa generazione, diciamo così, di giocatori varesini. Siena ha avuto, perché devi pensare che non c'erano probabilmente in campo tantissimi giocatori che abbiano perso una semifinale europea, però la società, il club, l'ambiente ha perso, per dire, tre volte una semifinale di Final Four. Allora poi giocare una partita secca diventa più facile, o comunque sai già che cosa aspettarti, è diverso dall'arrivare dopo tutti che ti dicono bravi, bravissimi, che miracolo, a dire adesso devi vincere, è tutta un'altra cosa. Certo. Per chiudere, Flavio, sei d'accordo sulla valutazione di Daniel Hackett, giocatore più migliorato della stagione? Premio che non esiste in Italia, in America sì. È possibile, ma credo che anche prima fosse un giocatore comunque che spostava. Io non rimango convinto che possa essere o debba essere considerato il giocatore che gioca 35 minuti e fa la guida della squadra, se non a un certo tipo di livello. per alzare il livello, però è un giocatore che su un diverso numero di minuti e con non necessariamente il doverlo giudicare da quanti punti segna, sta anche ad altissimissimo sì. livello europeo. Sì. Grazie Flavio. A voi. Alla prossima, un abbraccio. Torno ad ascoltare voi, ad ascoltare gli ascoltatori. 800 24 00 24, Enrico Pordenone. Sì, buongiorno signor Gente, complimenti per la trasmissione. Grazie Enrico. Devo confessare che parlare dopo The Voice, Flavio Tranquillo, The Voice, un po' emoziona, però proviamo a farlo comunque. Bandita l'emozione da questo spazio. Ok. Parliamo di sport. Sono d'accordo esatto. invece con chi scrive Jordan ha vinto 6 anelli, questa è la differenza per me tra lui e LeBron James. Ricky da Padova, firmo e sottoscrivo. Dica. Che non mi pare poco. No. Rimanendo in tema NBA, stanotte ho rinunciato qualche ora di sonno per vedere un po' di Oklahoma City contro Miami. Incomincia a nascere me un sospetto che riguarda Scott Brooks, l'allenatore di OKC. E negli ultimi 3-4 anni sta facendo numeri impressionanti e numeri alla mano, sembra che lui sia veramente un grande allenatore di scuola popovicciana, se ce n'è sì, una sì. Ma dopo aver visto ancora la partita di ieri sera, incomincio a nutrire un sospetto che tutti questi bei numeri sono soprattutto frutto del talento che ha a disposizione, perché a livello di gioco mi sembra che Oklahoma City sia ancora molto indietro. Dopo neanche due quarti aveva già perso quasi 20 palloni Oklahoma City. Sì, è un vizio che ricorre spesso, ma d'altra parte nessun allenatore può essere grande senza talento a disposizione, e questo vale anche per Scott Brooks. È una squadra che deve crescere ancora molto, secondo me. È una squadra però che ha fatto ogni anno un passo avanti, quindi vale la pena dare fiducia. Prima del traffico, Renzo Imperia, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. Intanto una segnalazione, non vi ascolto più per radio, ma l'ho già fatto, se è successo qualcosa. Ho avuto tempo, però vi faccio i complimenti, a prendere praticamente in tempo reale per il terzo posto di Merg, visto che sono io convocato, adesso cambierei un attimo sport, se non vi dispiace. Lei può fare quello che vuole. Grazie. Quindi complimenti a me se ci possono arrivare in qualche modo. Io sono un appassionato di sci e sono molto contento di questo. Ed è questa la mia domanda. Visto che c'è questo grosso fenomeno quest'anno che si chiama Ted Ligety, non da quest'anno per carità, perché è da anni ormai sulla breccia, ma quest'anno in questi mondiali a Slatling si sta veramente rivelando per un grosso fenomeno. Sì. Questi gli sci nuovi, l'opinione è già stata anche in televisione via dicendo, però mi sembrano diverse le opinioni. Volevo sentire un po' anche la vostra. Questi, la sua gente, questi sci nuovi di quest'anno, in gigante soprattutto, in gigante Super G, che ha Ligety, a lui non hanno portato danni, anzi, per lui sembra che vadano meglio. Sì. Allora, era così controverso questo cambio di sci? No, non la sua opinione. Ma guardi, io non sono un tecnico e non so darle un'opinione al di là della mia impressione. Di materiali si parla da che esiste lo sci, ma da almeno 20 anni. Ligety, come ricordava lei, è un fenomeno e non da quest'anno. Ho l'impressione che tutte queste polemiche siano un po' da lasciar cadere nel vuoto, e credo che l'ordine di arrivo e l'incoronazione di Ted Ligety, sci nuovi o sci vecchi, non faccio una piega. Mi unisco invece all'applauso per Merg. Strade. Complimenti per la trasmissione, che per noi che lavoriamo in macchina a quest'ora fa tanta compagnia. Onestamente è diventato un appuntamento imperdibile. Tutti convocati. Io torno a leggervi sempre con questo strano crossover un altro paio di brani di ciò che Massimo Picozzi, famoso criminologo, ha scritto oggi sul Sole 24 Ore sul caso Pistorius. Si parlava di rabbia. Allora scrive Picozzi: la rabbia è un'emozione, vale a dire qualcosa che accade in rapporto a una situazione esterna e perciò assume un ruolo sociale. La rabbia è un'emozione primaria, atavica, e in quanto tale non necessariamente negativa. Nello sport può assumere valenze costruttive, trasformarsi in stimolo a compiere, in grinta, oppure declinarsi in forme del tutto negative. I riflettori, i media possono, questo è importante, ascoltate, i riflettori, i media possono costruire addosso all'atleta una corazza di onnipotenza, nascondere le paure di un ragazzino sempre allerta per il timore di essere aggredito, ma si tratta pur sempre di una corazza che non può coprire ogni cosa. Basta un piccolo pertugio perché il rifiuto colpisca, la frustrazione monti, la rabbia accechi. Prevenire gesti estremi come quelli di Pistorius, se di omicidio volontario si parlerà, è pressoché impossibile. Lavorare sulla rabbia, sulla gestione delle emozioni, nello sport e nella società intera, è una sfida che dobbiamo raccogliere. ...800-24-00-24 è il numero verde. C'era un sms prima che lanciavo una domanda, così. E Baggio, punto di domanda, poi ve ne parliamo. Però prima Luciano, Genova, buongiorno. Buongiorno Carlo. Due cose. La prima, io ho un parente che pratica a livello molto intenso il ciclismo amatoriale, le Gran Fondo, sì, tutto il giro dell'anno, eccetera, le Parigi-Brest, addirittura quella di 1300 km con quattro sì, giorni, 5 giorni e 4 notti in mezzo, eccetera. Beh, lui mi ha detto che sa con precisione che purtroppo, persino nel loro ambiente, con persone di 50, 55 anni, c'è gente che si dopa. Ah, certo. Per guadagnare quella mezz'ora, quei 20 minuti, staccare di un'ora quello che è arrivato 800esimo e lui è arrivato 600esimo, per esempio, ecco. E quindi è veramente, ha perfettamente ragione. E sono in queste regioni, in queste zone deboli, chiamiamole così. In queste zone d'ombra, in queste zone grigie. Ma io, Luciano, la sua testimonianza aggiunge soltanto un ulteriore tassello a quello che io so già benissimo. Quindi è in queste zone fragili, deboli, d'ombra, in queste zone che non interessano i media, che non interessano i giornali, non interessano il grande pubblico, è in queste zone d'ombra che si nasconde il vero pericolo, il pericolo maggiore. Quindi lo so perfettamente, quindi non c'è niente di nuovo, non c'è niente di sorprendente in tutto questo. È semplicemente, sarebbe semplicemente qualcosa da sradicare, ma con grande violenza, se mi permettete la parola, violenza legale, naturalmente. Marco, Roma. Ciao Carlo. Ciao Marco. Sono da Bologna comunque, non da Roma, però vabbè, poco male. Va bene, io leggo quello che ho scritto sul monitor, perdonami. No, ma io non sono né di Bologna né di Roma, ma quindi di Napoli in realtà. Fantastico, Marco da Roma, da Bologna, perché però è di Napoli, allora. Allora, niente, prima di tutto volevo parlarti un attimo del Napoli e della partita di ieri. Sono combattuto perché da un lato penso che comunque è un peccato uscire così malamente da una competizione del genere, che comunque, diciamoci la verità, il Napoli non vince una Coppa Europea da più di 20 anni. Quindi per una questione di palmarès non ci possiamo permettere il lusso di sprecare così un'occasione del genere. Però dall'altra parte penso che comunque giocare il giovedì sera, magari poi anche in posti distanti molte centinaia di chilometri, sarebbe stato controproducente. Al di là del fatto che il Napoli ovviamente non parte, cioè parte nettamente sfavorito nella lotta allo scudetto. Ma io posso capire anche due calcoli che evidentemente sono stati fatti. Poi l'Europa League è una competizione molto difficile, ripeto, vincere l'Europa League non è molto più semplice rispetto a vincere la Champions League. Ci sono avversari di livello, ci sono appunto trasferte lunghe. Evidentemente è stata fatta una scelta consapevole, non credo, inconsapevole non credo, credo più che altro ragionata. Piuttosto ieri sera vedevo un po' tutte le partite, cavoli, a Londra sta doppiando per il Tottenham, avete visto in quale atmosfera ha giocato la Lazio. Da noi la musica anche ambientale è un po' diversa, però mi sembra che comunque quest'anno le italiane stiano prendendo con maggiore serietà questo impegno, e non può che, insomma, che far piacere, o comunque non si può non dire che stanno provando a fare il loro dovere, Napoli a parte ieri sera. Allora, mi hanno chiesto di Baggio, che ieri sera era non a parlare a una trasmissione sportiva perché non lo fa mai, non a rilasciare un'intervista, ma sul palco del Festival di Sanremo. Vorrei invitare i giovani a riflettere su queste parole. La prima è passione. Non c'è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi. La seconda è gioia. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa. Ricordo la gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso di mia madre nel metterci tutti e 10 la sera intorno a una tavola apparecchiata. È proprio dalla gioia che nasce quella sensazione di completezza, di chi sta vivendo pienamente la propria vita. La terza è coraggio. È fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere credendo in voi stessi. La quarta è successo. Se seguite gioia e passione, allora si può anche parlare del successo, di questa parola che sembra essere rimasta l'unico valore nella nostra società. Ma cosa vuol dire avere successo? Per me vuol dire realizzare nella vita quello che si è, nel modo migliore. E questo vale sia per il calciatore, per il falegname, l'agricoltore o il fornaio. La quinta è sacrificio. Il sacrificio è l'essenza della vita, la porta per capirne il significato. Non credete a ciò che arriva senza sacrificio. Non fidatevi, è un'illusione. Abbracciate i vostri sogni e seguiteli. Gli eroi quotidiani sono quelli che danno sempre il massimo nella vita. Ed è proprio questo che auguro a tutti voi e anche ai miei figli. Allora, parlare male di Baggio in questo paese è un sacrilegio, ma non me ne importa niente. Io sono sacrilego e dico che mi piacerebbe sentire Baggio in qualche intervista in qualche o dove vuole lui, anche in una piazza, parlare di calcio e non leggere queste banalità sul palco del Festival di Sanremo in cambio di molti verdoni, pare 700.000. Giorgio, provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno, mi unisco ai complimenti per la trasmissione. Grazie. Tipo interista e volevo fare ancora una volta, come i vostri ascoltatori hanno fatto, i miei auguri a una pronta guarigione, la speranza che si possa parlare di guarigione a livello calcistico. Sì. La mia domanda era, dal momento che parlate di basket, che fine ha fatto Derrick Rose dei Chicago Bulls? Derrick Rose ha avuto un infortunio gravissimo quanto quello di Milito, però è molto più giovane e anzi, ne ha avuti un paio uno dietro l'altro e presto lo rivedremo in campo come nella ben nota pubblicità che vediamo ogni qualvolta ci capita di imbatterci in una partita NBA, no? Pubblicità dello sponsor tecnico, lei l'avrà ben presente. Comunque, sì. Derrick Rose certamente torna, Milito, ce lo auguriamo tutti. Grazie Giorgio dalla provincia di Arezzo. Chiudo il programma, ci sentiamo domani con il magazine dalle 17 alle 18. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, ciao a tutti. In bocca al lupo a Sanremo. Dopo non so, perché nel mondo dello spettacolo magari fanno mille scongiuri, nostri in bocca al lupo, sono un po' superstiziosi. Un in bocca al lupo sincero. Merda. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Io sognavo montagne verdi.